Amen. Amen, Chiesa. Amen, amen. Grazie, Romina. Grazie, Fabio. Grazie per averci portato la sua presenza. Lui è buono. E lui è buono con noi, noi che siamo sua famiglia. Ed è... Pensate, questo è meraviglioso. Non siamo vicini, non ci possiamo vedere, non ci possiamo baciare e abbracciare. Io lo faccio simbolicamente, telematicamente, dite come volete, lo faccio perché vi voglio bene. Ma questo è il miracolo. Anche se non ci vediamo, e questo vale per me, spero che vale per tutti quanti voi o noi, anche se non ci vediamo, anche se non siamo vicini, anche se non siamo lì ad abbracciarci e a baciarci, c'è quell'appartenenza, ci apparteniamo, siamo famiglia, io lo sento, e questo è un miracolo. Fratelli e sorelle, amici e amiche, questo è un miracolo meraviglioso del Signore. Per fede noi siamo salvati e per fede noi entriamo a far parte della sua famiglia. E questo non va mai via. Non, una telecamera non può separare quell'affetto, quell'unità, quell'appartenenza. Una pandemia non può rompere questi legami. Il legame che abbiamo con Dio, sicuro, ma anche il legame che abbiamo l'uno per l'altro. E questa è una cosa che a me sorprende sempre anche, questo non fa parte del messaggio, lo sto dicendo così, però mi sorprende sempre perché avviene anche quando vado in altre parti del mondo, persone che non ho mai conosciuto, non parliamo la stessa lingua, non abbiamo la stessa cultura, i costumi uguali, eppure nell'istante che ci incontriamo, perché apparteniamo a Cristo Gesù, apparteniamo l'uno all'altro. Questo è un miracolo che Gesù fa quando Lui viene nella nostra vita. E Lui è nella nostra vita e Lui la stravolge, la nostra vita. Non sei solo. Questa mattina voglio dirti, non sei solo. Girati a chi è sul tuo divano, nella stanza, se sei da solo, dillo a te stesso, non sei solo, anche se sei fisicamente, non sei solo, non sei solo. Non permettere al nemico di suggerirti questa menzogna, perché il nemico suggerirà questa menzogna, forse più che mai in questo tempo, che sei solo, che nessuno ti capisce, che solo tu attraversi queste difficoltà. Non è vero. Non è vero, c'è scritto che Gesù è vicino, Dio è vicino a coloro che lo temono e che lo cercano sinceramente. Gesù ti è vicino e non solo Lui ti è vicino, ma io ti sono vicino. Per fede, perché abbiamo quel legame di fratellanza e di familiarità in Cristo Gesù, ti sono vicino. Ti sono vicino, tu sei vicino all'altro e l'altro è vicino all'altro ancora. Siamo una famiglia, non siamo da soli. Non possiamo permettere al nemico di dettare le sue menzogne a noi che siamo suoi figli. Non è vero che nessuno ti capisce. Non è vero che nessuno ti comprende. Non è vero che nessuno comprende quello che stai vivendo. Io comprendo quello che stai vivendo perché siamo tutti più o meno nella stessa battaglia per continuare a credere che Dio è e che Lui è il più grande, che Lui è buono. Non è vero che sei solo, non lasciarti influenzare da queste menzogne. Quando Gesù viene nella nostra vita per fede, Lui salva e Lui trasforma come nient'altro. Lui fa la differenza nelle nostre vite. Lui per fede ci trasforma, come ho già detto, e Lui per fede ci dà occhi per vedere cose che non si vedono. E io questa mattina, questa è proprio la mia preghiera, che questa mattina, accesi dalla fede che abbiamo in Lui, possiamo fare queste due cose. Vedere che quando Gesù è nella nostra situazione, nella nostra vita, Lui trasforma. E che Lui ci dà occhi per vedere cose che non si vedono. Dillo di nuovo a chi ti sta a fianco. Gesù trasforma e Gesù ti dà occhi per vedere. Gesù fa questo nella nostra vita e secondo me non c'è passo migliore per far questo che non sarà un salmo, ma sarà da Giovanni 4. In Giovanni 4 abbiamo una storia bellissima che secondo me, come poche altre, fanno vedere proprio questi due principi. E quindi vi voglio passare questa storia, la conoscete benissimo questa storia, però la voglio ricordare proprio insieme, proprio per vedere che Gesù nella tua situazione, in quello che ti trovi a vivere oggi, nel tuo carcere, no? Siamo tutti ai domiciliari, nel tuo carcere Gesù più di ogni altra cosa è interessato non a liberarti, non a migliorare la tua situazione, non a renderla più facile o più agevole. Gesù non è interessato a questo. Prima e più di ogni altra cosa, Gesù è interessato a trasformare la tua vita. Gesù è interessato a stravolgerla completamente. Anche se non stravolgerà magari la tua situazione, Gesù vuole cambiarla. Vedete, quello che troviamo in Giovanni 4, e forse la leggerò la storia o parte della storia, forse no, vediamo come va. Però in Giovanni 4 la conosciamo benissimo, è la storia dove Gesù incontra la donna al pozzo, è la donna samaritana. Sappiamo che Gesù forse non era proprio in fuga, però stava scappando dai farisei perché avevano sentito che faceva più battesimi e più miracoli di Giovanni Battista, di altri. Quindi Gesù si stava almeno allontanando dai farisei. E la strada solita per da dove stava andando Gesù, cioè da Gerusalemme alla Galilea, era quello di passare per la valle del Giordano. Si andava a destra, no? O a est, giù per il fiume. Perché? Perché i giudei evitavano la Samaria. Nessuno ci passava attraverso la strada. I giudei samaritani non si potevano proprio vedere, ma niente, però, a dire il vero, erano più i giudei che discriminavano i samaritani. E quindi nessuno passava per la Samaria. E forse Gesù, perché era seguito o inseguito dai farisei, sceglie proprio la Samaria perché forse sapeva che loro non l'avrebbero seguito attraverso la Samaria, non lo so, ipotizzo, però è plausibile. Sta di fatto che Gesù è in viaggio e si ferma, lascia i dodici, era con i dodici vanno nel villaggio a comprare il sacco a pranzo, il pranzo a sacco. Quindi vanno a comprare il pranzo, in altre parole. Gesù è stanco, sappiamo che è mezzogiorno, quindi l'ora più calda della giornata, suda, sì, perché Gesù sudava, lui era uomo, era tutto uomo ed era tutto Dio nella stessa persona, quindi sudava molto probabilmente, era stanco, seduto al pozzo, ha sete. C'è scritto che Gesù aveva sete. E qui è quando inizia l'interazione con la donna samaritana. E potremmo dire milioni di cose, potrei parlare per ore e ore e ore, facciamo che parlo solo un paio di ore piuttosto che ore e ore e ore. D'accordo? Va bene? Vi va? Ok. Vediamo qual è questa interazione fra Gesù e la donna samaritana. Il primo punto, ripeto, che voglio fare è proprio questo. Gesù non è interessato a migliorare le nostre situazioni. Gesù non è interessato solo a cambiarle. Gesù non è interessato solo a modificarle un po', a far parte della tua vita. No, Gesù vuole stravolgerla. Gesù vuole trasformarla. Gesù vuole diventare il Signore. Gesù diventa o il Signore o niente, o tutto o niente. E quello che avviene con la donna samaritana è proprio questo. Vi ricordate, Gesù inizia a parlare con la donna samaritana e di per sé è già un rompere qualsiasi schema e regola culturale dell'epoca. Gesù parla con la donna samaritana e gli dice: dammi da bere. La donna samaritana ovviamente è meravigliata. Come? C'è scritto, poi magari andate a vedere Giovanni 4, dice, come? Tu, giudeo, chiedi a me, samaritana e donna, di darti dell'acqua? Perché c'è scritto, questa cosa non si faceva. Vi ricordo, i samaritani e i giudei non si parlavano neanche. Gesù parla alla donna samaritana. E la donna samaritana dice, come? Tu chiedi a me. E che cosa risponde Gesù? Ricordate? Gesù, parafraso, dice, se solo sapessi chi ti sta chiedendo di quest'acqua, sei tu che chiederesti a me acqua. E io ti darei un'acqua che una volta bevuta non avresti mai più sete. E la donna Non lo so a questo punto, se è confusa, dici, ma questo già non mi deve parlare. Poi sta acqua, ma è mai possibile? È mai possibile? Oppure forse è anche un po' arrogante, no, a questo punto, quasi vuole prendere in giro Gesù a dire, vabbè, ma neanche ce l'hai il secchiello, voglio proprio vedere come fai ad attingere l'acqua in fondo al pozzo. E quindi secondo me la donna gli dice, vabbè, vediamo, dai, vediamo un po', e dammela quest'acqua. Ipotizzo che sia andato un pochino così, mi sto calando nella storia. E la samaritana fa, dimmi, dammela quest'acqua. E Gesù stravolge ancora la conversazione. E dice, ok, vammi a chiamare tuo marito. Scusate, non stavamo parlando di acqua, di pozzo e di secchiello. Che c'entra il marito? Per noi. Per noi che magari se la sentiamo per la prima volta la storia, se la leggiamo per la prima volta magari, andremmo così avanti logicamente, no? Cioè, stavamo parlando di acqua, che c'entra il marito? E invece la donna lo sapeva molto bene. E forse la confusione o l'arroganza si smonta a questo punto. E lei dice, no, il marito, cioè sì, io l'acqua, quell'acqua, veramente la volevo, però il marito non ce l'ho. E Gesù la guarda negli occhi, almeno mi piace immaginarlo così, la guarda negli occhi e dice, hai detto bene che non ce l'hai marito, ne hai avuti 5, e quello con cui vivi adesso non è tuo marito. Se questo non fosse stato vero, è un conto, ma siccome era vero, la donna è asfaltata. Adesso forse non sa più quello che dire. Forse vuole iniziare a piangere, forse vuole scappar via, forse non... Immaginate le milioni di emozioni nel cuore che stanno avvenendo in questo momento nella donna. Forse non sa dove metter faccia, chissà quello che sta avvenendo nella donna. Però il suo istinto, secondo me, fa fare una cosa alla donna e fa cambiare discorso. No, per istinto, forse non sapeva dove nascondere la faccia, dice vabbè, cambio discorso. E la donna, no, vi ricordate, dice, ah, vedo che sei un profeta, come minimo, no? Dice, ah, sì, ci sei andato bene su quella storia là. Siccome sei un profeta, qui la donna fa una cosa, no? La mette sul religioso, dice, siccome sei un profeta ti faccio questa domanda, noi samaritani adoriamo qui, voi giudei adorate lì, secondo te invece dove dobbiamo adorare? E Gesù ancora una volta dice, né qui né lì, in spirito e in verità, ancora una volta stravolge la vita della donna. Vedete quello che Gesù fa con la donna? Quando la donna stava pensando magari all'acqua corrente in casa sua che avrebbe potuto avere attraverso Gesù, Gesù stava parlando di acqua viva che avrebbe stravolto e che ha poi stravolto eternamente la vita della donna. Non era interessato a migliorare il suo appartamento. Gesù era interessato a stravolgere la vita della donna e l'ha stravolta. Quando la donna l'ha voluta mettere sul religioso, e vabbè, dove dobbiamo adorare? Com'è meglio? Vedo che sei profeta. Gesù stravolge la sua vita dando un'opportunità alla donna di avere una relazione personale con il Padre in spirito e verità. Vedete quello che Gesù fa? Quando incontra qualcuno, quando Gesù viene nella nostra vita, lui non cambia solo le cose, lui non le migliora soltanto, lui prima ci asfalta magari e poi ci trasforma. Qual è l'acqua di cui credi di avere bisogno oggi? Quali sono i tuoi pensieri, i tuoi problemi, le tue preoccupazioni, le tue impossibilità, le tue insofferenze, le tue malattie, le tue mettici quello che vuoi? Forse Gesù non le sta neanche guardando, perché lui ha qualcosa di tanto più glorioso, di tanto più altro da darti. Avvicinati a lui e lui ti trasformerà. Avviciniamoci a lui, fratelli e sorelle, perché vicino a Gesù la nostra vita è stravolta e trasformata. Quindi la prima cosa che deduco da questa storia è proprio questa. Gesù non è interessato a trasformare o a cambiare solo un pochino o a migliorare solo un tantino. Gesù stravolge la vita e Gesù vuole stravolgere le nostre vite anche in questo periodo. anche nella nostra prigione che stiamo vivendo, Gesù è più interessato al nostro cuore. Gesù è più interessato a quello che avviene nel nostro più profondo. Per questo avviciniamoci a Lui e Lui ci darà occhi nuovi. Lui ci farà vedere quello che oggi magari non riusciamo a vedere. L'Apostolo Paolo diceva in 2 Corinzi 4 alla Chiesa, a questa Chiesa, non guardate alle cose che si vedono, perché sono passeggere. Non guardate a quelle. Guardate a quelle che non si vedono, perché sono eterne, sono tanto più gloriose, sono tante più potenti, sono tante più importanti. A cosa stai guardando oggi? E questa è la seconda cosa che voglio dirvi questa mattina. Quando Gesù viene nella nostra vita, non solo Gesù trasforma e rivoluziona completamente le nostre vite, la seconda cosa che fa per fede è Lui ci dà una vista diversa. Lui apre gli occhi come nessun altro, perché Lui non apre gli occhi di questo corpo. Lui apre gli occhi del nostro cuore, del nostro spirito. Lui apre la nostra vista a cose che non si vedono, a cose spirituali. Io voglio avere sempre più quegli occhi. E io prego per tutti quanti noi, per questi occhi in questo momento di difficoltà, in questa situazione, quello che abbiamo vissuto, questa quarantena che sembra mai finire, o forse alcuni di noi già hanno paura a quando si riaprirà il tutto. Forse qualcuno di noi ha paura alla normalità che tornerà. Non lo so. Non guardare alle cose che si vedono. Dio per te ha occhi diversi per vivere la situazione, i problemi, le difficoltà, le sfide, le paure, le sofferenze, come abbiamo visto domenica scorsa, che stiamo vivendo adesso. Dio vuole darti occhi nuovi per vederli in maniera diversa, per vedere altro. Da dove prendo tutto questo? E per forza, dai discepoli, no? Perché la storia non si ferma lì. Arrivano i discepoli, e quando arrivano i discepoli, fatemelo dire questo, secondo me è sempre tragicomico quando vengono questi 12, no? Che seguono Gesù. E anche qui, secondo me, anche questa volta, la storia è proprio tragicomica, è proprio fa ridere e fa piangere allo stesso tempo. Che cosa succede? I discepoli, avevo detto, erano andati nel paese a comprare il sacco, il pranzo a sacco. Oh, non mi esce sta. Pranzo a sacco. Forse la focaccia, non so, il panino con la mortadella, non lo so cosa si comprava all'epoca, però sono andati al villaggio a comprare il pranzo. Nel frattempo stanno tornando, no? E io l'immagino, perché il pozzo forse si vedeva già da lontano, magari il villaggio era su una collina, immagino questa scena, no? E fa caldo, e sta, ci sono le cicale, no? E i discepoli si iniziano ad avvicinare al pozzo. Si iniziano ad avvicinare al pozzo, questo non è scritto, piace immaginare a me, però per calarci più nella storia, no? E vediamo che i discepoli si avvicinano. E mi immagino, no? Per esempio Tommaso che fa così a Pietro. Oh Pietro, ma vedi quello che vedo io? Ti rendi conto? Stai vedendo la stessa... Io non voglio neanche guardare Pietro dice a Tommaso, sempre per immaginare, io non dico niente. Sempre io devo parlare, sempre io devo dire qualcosa, io non dico niente questa volta, eh? Questa volta mi sto zitto. Noi non riusciamo neanche a immaginare quello che stava avvenendo. 2000 anni fa, con la cultura che c'era, con quello che vivevano, i discepoli sicuramente sono stati stravolti. E man mano che si avvicinano, aumenta forse questa tensione, questo imbarazzo, questo sentirsi a disagio. Gesù sta parlando con una donna e con una donna samaritana. Questo non si fa, non si fa. C'è scritto letteralmente che tutti erano meravigliati, sorpresi, io aggiungo forse imbarazzati, o appunto non sapevano quello che fare, perché poi c'è scritto che non solo erano meravigliati, c'è anche scritto che nessuno disse nulla. Pietro dice: no, io non paho, io non dico niente. Tutti facevano fino, tutti si giravano attorno, magari così, facendo fino. No, non ci posso credere che ha fatto questa cosa, non si può fare, non si può fare. E poi, molto probabilmente Pietro, che non riusciva a tenere mai a freno quella lingua, continua a immaginare, Ha detto la prima cosa, seguita a coro dagli altri sicuramente, la prima cosa che gli è balenato nella testa, la prima cosa che gli è venuta di dire in mente, e che cos'è? Signore, mangia! Siamo andati al villaggio a porto. Immaginate l'imbarazzo, nessuno voleva dire niente, mo che gli diciamo come spezziamo questo momento di imbarazzo? Signore, mangia! E siamo andati apposta a comprare il pranzo. Mangiavo, forse no, avevano anche loro fame, perché avevano aspettato il Signore per mangiare fino a quel punto. Oppure, no, come vi dicevo, erano imbarazzati. Comunque, sta di fatto che dicono, Signore, mangia! E Gesù che cosa risponde? Gesù che, questo ve lo leggo da appunto Giovanni 4. Pensavo che avevo messo il segno, invece non l'ho messo, però eccolo qui. Gesù risponde così. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere l'opera sua. Non dite voi, Gesù dice ai discepoli, non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Ebbene, vi dico, alzate gli occhi, vista. Alzate gli occhi e guardate, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. I discepoli stavano pensando al loro ombelico, si stavano guardando l'ombelico, forse perché avevano fame, forse perché erano imbarazzati, sta di fatto che i loro occhi erano bassi. E Gesù dice, alzate gli occhi. Ancora una volta, Gesù non è interessato a migliorare la vita dei discepoli, ma a stravolgerla completamente. Secondo voi Gesù non aveva fame? Sicuramente, aveva viaggiato. C'era scritto poco prima che aveva sete. Se aveva sete, molto probabilmente aveva anche fame. Però Gesù stava dicendo, io ho un cibo che mi sazia al di là di ogni altra cosa. E questa è l'opera di Dio nella mia vita. Per questo ai discepoli dice, alzate gli occhi e guardate, guardate in maniera diversa, guardate oltre, guardate quello che vedo io, non guardate a quello che si vede, e cioè al fatto che ho parlato con una donna samaritana. Non guardate a quello che si vede, la focaccia calda nella carta. Non guardate a quello che si vede, alzate gli occhi e guardate oltre. Questo è quello che Gesù sempre è interessato a fare per i suoi discepoli e lo vuole fare ancora oggi nella tua vita. Per questo stamattina il Signore ancora una volta ti dice, alza gli occhi! Non guardare a quello che si vede. Non guardare a quello che si vede, non guardare a quello che stai vedendo nella tua famiglia, nella tua casa, nella tua situazione, nelle tue prospettive. Dal 4 maggio in poi, non guardare a quello che si vede. Il Signore ti dice, alza gli occhi e guarda, e guarda. È logico guardare alla mietitura, no? Gesù dice, voi dite, io dico. Voi dite una cosa logica. Cioè che se metti il fagiolino nell'ovatta, non ti aspetti che dopo pochi secondi c'è la piantina. È logico che bisogna aspettare. Se si guarda con gli occhi umani, se si guarda con gli occhi fisici, è logico questo, ma io vi dico, perché io, Gesù dice, perché io voglio darvi una vista nuova, occhi nuovi, occhi che guardano al diverso e guardano ad altro. Io vi dico, sono già bianchi. E sicuramente stava parlando dei samaritani, perché sicuramente Gesù aveva quegli occhi pronti a guardare, fissi al padre e vedere quello che già stava succedendo nel villaggio. La samaritana era tornata, stava annunciando che aveva trovato il Messia. Dice, venite a vedere, forse l'ho trovato. Il Signore già vedeva che stava parlando ai cuori, che stava trasformando i cuori, che Gesù già vedeva alla fine del capitolo, che i samaritani avrebbero detto, non crediamo solo più per quello che ci ha detto la donna samaritana, adesso noi abbiamo visto con i nostri occhi che tu sei il Salvatore del mondo. C'è scritto alla fine del capitolo, 2 volte nella Bibbia c'è scritto, c'è dato questo titolo a Gesù, questa è la prima volta, Salvatore del mondo, la prima volta. Un'altra cultura che riconosce Cristo Gesù non solo come il Salvatore dei giudei, ma come il Salvatore di tutti i popoli. Questo è quello che Gesù vedeva, E questo è quello che chiama i suoi discepoli a fare. Alzate gli occhi, guardate oltre. È più grande, è più glorioso. Fratelli e sorelle, siamo chiamati ad alzare gli occhi dalle nostre situazioni, dalle nostre circostanze, perché Gesù nella nostra vita, per fede, ci dà una vista diversa. Ci vuole dare sempre di più una vista diversa. Però prima di poter guardare, bisogna alzare lo sguardo. Vero? Lo dice pure Gesù. Alzate gli occhi, punto. No, non c'è punto. Alzate gli occhi e poi guardate. Per guardare quello che Gesù vede, per guardare come Gesù lo vede, dobbiamo alzare i nostri occhi. I discepoli hanno dovuto alzare i loro occhi dalla loro fame, dal loro ombelico, dal loro imbarazzo, da quello che era, non lo so, ipotizzo, ma i discepoli sta di fatto che hanno dovuto alzare il loro sguardo, e così dobbiamo fare anche noi, fratelli e sorelle. E ci sono un milione di modi attraverso il quale noi possiamo e dobbiamo alzare i nostri occhi. E però ve ne voglio passare due. Uno, per alzare i nostri occhi, per guardare a quello che Gesù guarda, dobbiamo distogliere il nostro sguardo dal peccato. Se guardiamo al peccato, se guardiamo e miriamo a quelle cose che così facilmente ci avvolgono, non possiamo guardare a quello che Gesù guarda e come Gesù vuole che noi lo guardiamo. Non possiamo vedere le cose che Lui ha per noi. La prima cosa che Gesù ci chiama a fare è distogliere lo sguardo dal peccato. È la cosa che ha fatto con la donna samaritana, vi ricordate? La prima cosa che Gesù fa nella vita della donna, dopo che la donna gli chiede, sì, dammi di quest'acqua, io voglio questa vista, voglio vedere le cose in maniera diversa, voglio essere trasformata. La prima cosa che Gesù fa, con amore, con grazia, ma con determinazione e senza mezzi termini, e affrontare il peccato nella vita della donna samaritana. Va a chiamare tuo marito. Per guardare quello che Gesù vede, come Gesù lo vede, per acquisire sempre più quegli occhi di fede, dobbiamo distrarre il nostro sguardo, distogliere il nostro sguardo dal peccato. Gesù stesso ha detto, nelle beatitudini, vi ricordate? Beati i puri di cuore, perché essi, quelli che sono puri di cuore, quelli che non guardano e non fissano il peccato, quelli che non guardano a quelle cose, vedranno Dio. Vuoi vedere Dio nella tua vita? Vuoi vedere Dio nelle tue circostanze? Vuoi vedere con occhi diversi? Vuoi vedere cose diverse? Distoglili dal peccato. E non lo so qual è il peccato della tua vita. Io so quello che è nella mia. E ce n'è tanto. E a volte mi schiaccia. E il Signore ti dice, uno alla volta. E io voglio dirti questa mattina, uno alla volta. Non guardarli tutti insieme, altrimenti ti schiaccia il peso del peccato. Il Signore ha fatto la stessa cosa con la donna samaritana, vero? Sappiamo che la donna samaritana è una peccatrice come tutti quanti noi, come tutti gli esseri umani. E avrebbe potuto fare una lista di chilometrica alla donna samaritana. Avrebbe potuto fare, chiama tuo marito, restituisci questa cosa a quello che hai preso, togli questa parola che hai detto a quella persona. Avrebbe potuto fare una lista chilometrica, invece ha detto solo una cosa. Una cosa alla volta. Non fare pace col peccato nella tua vita. Non fare scuse col peccato nella tua vita. Non scusarlo, non alleggerirlo, non dire, vabbè dai, non è così tanto grave. No, è grave da renderti cieco. Non ti fa vedere quello che Dio vede come tu vuoi che lo veda. Mettilo a morte. Determina di combatterlo con tutte le tue forze. E un giorno sarà una battaglia vinta, un altro una battaglia persa, non importa. La cosa che determina la vittoria ultima è il fatto che tu, con Cristo Gesù e in Cristo Gesù, per fede, decidi di mettere a morte il peccato nella tua vita. E per grazia, e per la sua grazia, per la sua potenza, che tu puoi mettere a morte quel peccato. E qual è? La pornografia, Ringrazio Stefano per mercoledì, è stato meraviglioso. Se non l'avete seguito, seguite, sicuramente c'è ancora su YouTube l'insegnamento, è stato meraviglioso. Metti a morte nella tua vita pornografia, metti a morte nella tua vita l'impurità sessuale, metti a morte nella tua vita dipendenza da cibo, da qualsiasi cosa, pure dal caffè, se è troppo, se distogli il tuo guardo da Gesù e da quello che lui vede, come tu lo vedi, come lui lo vede, e ti fa guardare al caffè, anche quello è peccato, devi mettere a morte. Qualsiasi cosa, non mi interessa, una cosa alla volta, ma mettilo a morte e decidi con chi farlo. Decidi con chi farlo, non farlo da solo, non sei solo, siamo una famiglia. Io ho 2-3 persone che regolarmente confido e confesso la mia battaglia, i miei alti e i miei bassi. Insieme ci sosteniamo nella battaglia. Scegli con chi combattere. La prima cosa per vedere quello che Gesù vede e come lui lo vede, per alzare gli occhi e guardare, devi distogliere la tua vita, i tuoi occhi dal peccato. La seconda cosa è distogli il tuo sguardo dalle cose poco importanti, dalle cose inutili, dalle cose frivole, dalle cose piccole. Distogli il tuo sguardo dalle cose piccole e guarda le cose grandi che il Signore ha per te. Se guardi sempre alle cose piccole, non riuscirai a vedere quello che Gesù vuole che tu veda. Quali sono le cose piccole nella tua vita? Forse sei te stesso. Io confesso, sono bramissimo a fare questo. Signore, ma io sono troppo così. Signore, io non ce la faccio. Signore, io questo. Signore, io quello. Signore, ma questo è troppo. Ma non guardare a quanto tu sei piccolo. Il Signore ti dice, alza gli occhi. Distrai da te stesso e guarda a me. Guarda alle cose che io ti voglio far vedere. Guarda a quello che io ho per te. Ha molto a che fare con molto poco a che fare con te, ha tutto a che fare con me. Distogli il tuo sguardo. Quali sono le cose piccole dalle quali devi distogliere il tuo sguardo? Guardate, quali sono le cose frivole, quelle cose. Per me è sempre difficile, no? Perché dice, Signore, se io devo distrarre le cose, il mio sguardo dalle cose piccole, che cosa devo fare? Devo sempre pensare all'angelo Gabriele che combatte con demoni, devo sempre pensare al tuo regno. Signore, non ce la faccio. Sempre quei pensieri, che cosa significa? Io credo che ci sta pensare anche alle cose frivole, a pensare agli uccelli del cielo e ai gigli dei campi, no? Anche Gesù ci ha pensato a quelli. E ha visto che il Padre provvedeva a loro. Ci sta ad avere sete. Gesù al pozzo, una cosa frivola, ha avuto sete, ci sta. Che cosa significa non essere distratto e guardare le cose piccole? Significa in ogni circostanza, anche quando stiamo vivendo le cose frivole di distrazione, di avere sempre quelle antenne accese, sintonizzate a quello che il Padre vuole fare e a quello che Lui ha da fare. Vedete quello che Gesù ha vissuto? Frivolo, era stanco, era assetato, voleva da bere, ha iniziato a parlare, dammi da bere, e poi però le sue antenne erano ben sintonizzate col Padre, appena ha visto l'opportunità di una donna, l'ha colta. Questo è quello che Gesù vuole fare, distrai il tuo sguardo dalle cose piccole, dalle cose frivole, per vedere quello che Gesù ha per te di glorioso. Il Signore vuole darti una nuova vista. Il Signore vuole darti nuovi occhi. Concludo con questo. Una volta un carcerato, un ergastolano, aveva 2 sentenze di ergastolo. Nel carcere poi è venuto a conoscere Gesù. Gesù non ha solo cambiato, modificato la sua vita, l'ha stravolta. Questa persona è rimasta in carcere. E lui ha detto questo, dopo la sua conversione. A un pastore, ha detto, se io guardo con gli occhi fisici, con i miei occhi, quello che mi sta attorno nel carcere, ergastolo, è rimasto a vita nel carcere, se io mi guardo attorno con i miei occhi, si fa veramente dura. Ma quando io sono alla sua presenza, quando io guardo con i suoi occhi, allora tutto si trasforma. Eppure questa persona non è che esce dal carcere, non è che va in altri ambienti, in altri luoghi, non esce dalla sua cella, non esce dalla mensa dove chissà cosa succede. Eppure alla sua presenza riceve occhi diversi per vedere cose in maniera diversa. E questo è quello che Gesù vuole fare nella tua circostanza e nella mia. Gesù non è interessato a migliorare o a giusto alzare di un gradino la nostra esistenza. Gesù vuole stravolgerla. Gesù vuole darci occhi che vedono cose in maniera completamente diversa. Per questo questa mattina il Signore ti dice: guarda, alza gli occhi, distraili da quello che ti distrae, alza gli occhi e guarda quello che vedo io, e guarda come lo vedo io. Nella tua circostanza, in quello che stai vivendo, nelle tue difficoltà, Dio ha sempre per te, sempre di più, occhi nuovi. E io prego per quegli occhi nuovi, io prego per quella consapevolezza che Gesù trasforma le nostre vite. Posso fare una cosa? Posso pregare per tutti quanti noi? E io credo quello che ho detto all'inizio, che questo legame che ci connette non va via, non svanisce, rimane. E quindi voglio pregare per te che non conosci Gesù. Gesù vuole trasformare la tua vita, non vuole solo modificarla, non vuole rendere solo la domenica mattina migliore. Lui vuole trasformare la tua esistenza da così a così, da morte a vita, da mediocrità a qualcosa di glorioso e splendente alla luce dei suoi occhi. Per questo ti chiedo, se hai libertà di farlo anche dove ti trovi, alzati in piedi e di sì, io voglio quel Gesù. Io voglio quel Gesù che trasforma la mia vita. E se altri di voi invece dicono, sì Gianluca, io ho bisogno di alzare il mio sguardo dal peccato, dalle distrazioni, ho bisogno di alzare il mio sguardo dalle cose che si vedono, dalle cose che io sto vivendo oggi, a quelle che non si vedono. E allora anche a te, se hai libertà di farlo, dove ti trovi, dalla sedia, dal divano, dal letto, da dovunque sei, alzati in piedi. Io non ti vedo, molti pochi forse ti vedranno. Gesù ti vede, Gesù vede quel passo di arresa e voglio pregare per voi. Signore Gesù, tu sai chi si è alzato in questo momento e per questo io prego, Signore, secondo questo passo di fede, fisico, di alzarsi in piedi, Signore, Padre, io so che tu lo vedi, perché niente ti è nascosto, nessun cuore ti è nascosto, Signore, tu vedi, tu sei vicino. E Padre, per questo io prego, trasforma, dai nuova vita, Signore, dai vita eterna, dalla stanzetta al soggiorno, al terrazzo, al balcone, dai nuova vita in questo momento, nel tuo nome santo. E Padre, dai occhi nuovi, dai occhi freschi. Padre, rinnova la nostra vita. Io prego affinché tu possa mettere a morte in chi si è alzato chiedendo nuova vista, potendo e volendo guardare a quello che tu vedi, a come tu lo vedi. Padre, io ti prego in questo momento, apri gli occhi del cuore. Padre, apri questi occhi affinché possano vedere le cose che non si vedono, quelle che sono eterne, quelle che sono gloriose, quelle che non hanno mai fine, quelle che stanno alla tua presenza, Signore, e che lo saranno per sempre. Apri gli occhi oltre le quattro mura di casa, apri gli occhi oltre queste situazioni che stiamo vivendo. Padre, dai occhi nuovi, dai la tua vista, nel tuo nome santo. Padre Gesù, ti ringrazio perché sei nella nostra vita. Gesù, ti ringrazio perché sei venuto. Gesù, ti ringrazio perché ancora oggi ti siedi con noi, che siamo indegni, che continuiamo ad essere indegni. Grazie perché ti siedi a quel pozzo e ci offri acqua che non è comparabile a nessun'altra. Grazie, Padre, a te la gloria. Amen.